zum Beginn und machen es wieder so, zuerst der Vortrag, dann halten wir eine kleine Pause und nachher die Diskussion. Und falls noch bis dahin wird Herr Rohr wieder erscheinen. Anche se c'è qualche domanda ancora concernente la relazione di stamattina, c'è ancora occasione dopo la discussione sulla relazione attuale. Prego. Dunque, grazie professore. Dunque io sarò breve, anche perché questo è un orario che non mi permette di usufruire delle mie forze in un modo sufficiente da parlare a lungo, e anche perché vi faccio grazia in quanto anche voi avete mangiato, io ho mangiato poco, insomma la digestione c'è, anche voi avete mangiato e avete diritto a non essere tediati, soprattutto da queste mie piccole cose. E vengo subito al dunque. Io ho accettato una piccola parte del programma che Mohr mi voleva imporre, perché era superiore alle mie forze. E vediamo subito qual è questa parte. È un momento importante della storia del potere civile dei vescovi in Italia e anche in Germania, è l'epoca ottoniana. L'epoca ottoniana nel primo ventennio della seconda metà del secolo X. A questo periodo io limito il mio intervento e credo che sarò molto più limitato poi dello stesso enunciato che vi do adesso. Ancora oggi, nei manuali di storia ad uso delle scuole, il potere comitale dei vescovi italiani nel secolo X è considerato sostanzialmente o del tutto identico a quello dei vescovi tedeschi. La politica di Ottone I, in Germania come in Italia, si sarebbe, secondo la teoria tradizionale che i manuali sempre riportano, la politica di Ottone I, sia in Germania che in Italia, si sarebbe volutamente servita, ripeto, volutamente servita, dell'appoggio vescovile contro l'alta nobiltà laica. Anzi, in un paese o nell'altro, Ottone avrebbe strappato le prerogative giurisdizionali a parte della nobiltà per trasferirle ai vescovi. Si aggiunge nei manuali, tutt'al più, che i vescovi già godevano di fatto del potere politico. Ora, un'osservazione va subito fatta, a mio avviso ed avviso anche di altri. Non è possibile contrapporre i vescovi all'alta nobiltà, facendone due parti con interessi diversi. Dal momento che spesso i vescovi provengono dalle grandi famiglie nobiliari e non possono agire in modo del tutto autonomo dalle stesse. Qui a me importa solo portare qualche elemento ulteriore ad una convinzione che a livello di studi specialistici, non più di manuali, si va da pochi anni affermando nella storiografia italiana, mi limiterò solo, quasi solo, non solo, ma soprattutto a quella italiana. I vescovi del secolo X, in quasi tutta l'Italia settentrionale, rappresentano una forza politica di fatto che Ottone I è obbligato a riconoscere. Lo fa dunque non per contrapporre i funzionari laici, ma perché non ha via diversa di scelta. L'imperatore, anzi di più, come credo di aver dimostrato recentemente nel mio articolo su studi medievali, vescovi e conti nell'Emilia occidentale da Berengario I, Ottone I, l'imperatore, Ottone I, di più, come credo di avere in parte dimostrato, mentre elargisce giuridicamente ai vescovi i poteri comitali, tutti o in parte, ripeto, sulla città e il territorio vicino, poteri che molti di essi già esercitavano, l'imperatore è intenzionato soprattutto a ridare forza ai funzionari laici, i conti. Questi, i conti, provenienti in tanti casi da famiglie di vassalli vescovili, con l'aiuto di Ottone riescono a riguadagnare quanto possibile dei diritti comitali ed a contrapporsi poi ai vescovi stessi. Da queste nuove famiglie provengono non pochi dei nuovi vescovi. Dai Canossa proviene il vescovo di Brescia Gotifredo, figlio di Adalberto Atto, capostipite della Casata. Dai Canossa proviene anche il vescovo di Parma, Sigefredo, che io ho dimostrato essere figlio di un fratello di Adalberto Atto di Canossa, del fratello più vecchio, Sigefredo. Dai Canossa proviene il vescovo di Arezzo, Tedaldo, anche questo canossano, come dicevo, nipote di Adalberto Atto. Ogni generazione, quindi, nella seconda metà del secolo X e agli inizi dell'XI, ogni generazione canossana è accompagnata dall'espressione di vescovi, tre in tutto, in tre città importanti. Brescia, da lungo tempo area di influenza dei Supponidi, antica e potente famiglia franco-salica, forse la più potente nell'Italia del Nord nel secolo X, prima metà. Parma, ricchissima sede vescovile, si pensi a Guibodo, vescovo nella seconda metà del secolo IX, potentissimo. Appannaggio, Parma, prima che di Sigefredo, di Uberto, arcicancelliere imperiale. La terza sede, Arezzo, anch'essa una sede ricchissima, resa prospera dalle donazioni di Re Ugo e tappa importante sulla via Cassia. Qui i Canossa insediarono come vescovo un membro della loro famiglia, forse per preparare il terreno al loro ritorno in Toscana in veste di duchi con Bonifacio. E per fronteggiare, credo, anche le grandi famiglie degli Aldobrandeschi, dei Gherardeschi, dei Berardenghi che estendevano i loro possessi tutto attorno alla città e in parte anche, perché no, in accordo con essi. Di più, in due delle tre grandi città in cui Canossa pongono un loro esponente come vescovo, resistevano, persistevano grosse famiglie comitali, i Supponidi probabilmente a Brescia, i Bernardinzi a Parma, e non sono famiglie piccole. Dei Supponidi ho già detto, dei Bernardinzi noi sappiamo discendono da Bernardo re d'Italia, hanno una storia lunghissima, sono famiglia potente, documentata come potente anche dalla Visca recentemente nella ricostruzione dello stemma familiare. I Canossa sembra dunque che si preoccupino di collocare membri della loro famiglia sulle cattedre vescovili delle città nelle quali persiste un potere comitale gestito solidamente da gruppi nobiliari antichi, non longobardi come loro, franco-salici, ben radicati. Ma certamente essi divengono conti dove è forte in modo particolare l'autorità dei vescovi. Nel 962 Adalberto Atto diviene da semplice miles del vescovo di Reggio, conte di Reggio e di Modena. E ricordiamo che il vescovo Guido di Modena fu arcicancelliere due volte, sotto due personaggi nemici, Berengario II e Ottone I. Adalberto diviene conte di Reggio, di Modena e qualche anno dopo, forse nello stesso anno, anche conte di Mantova. Quindi si insedia nel cuore della Padania, occupa la zona di vecchia influenza supponide. Tedaldo, figlio di Adalberto Atto, completa l'occupazione della vecchia zona supponide diventando conte di Brescia. E badate tutto questo sotto lo stimolo con l'appoggio di Ottone I. Naturalmente poi per Tedaldo dei successori di Ottone I, ma la politica inizia con lui. Noi sappiamo che Ottone I fece conte di Reggio di Modena ad Alberto Atto e probabilmente lo fece conte anche di Mantova. Tedaldo, figliolo di Adalberto Atto di Canossa, diventa conte di Brescia quando ormai la decadenza dei Supponidi è tristemente documentata, come credo di aver illustrato un pochino in questo mio articolo di 3 anni fa e anche nel mio piccolo libro Terra e società nell'Italia padana nei secoli IX. Si suppone che si estinguono anche biologicamente, è una famiglia della vecchia nobiltà che si stanca. che non è capace di sopravvivere nel secolo X, con i problemi che il secolo X impone, le schiacciate della nuova nobiltà longobarda. Ora, sappiamo che la carica comitale fu conferita al primo dei Canossa da Ottone I. E non possiamo non concludere che egli incoraggiò la politica di una dinastia che, anche se sorta all'ombra del potere vescovile, gli si ritorse contro, limitandolo fortemente nelle città nei cui contadi i Canossa tennero la funzione comitale, e inglobando il potere vescovile nelle città dove i Canossa puntarono sulla cattedra episcopale e la ottennero. Dove non furono membri della famiglia canossana ad essere vescovi, nelle città in cui i Canossa non riuscirono a diventare vescovi, a volte i Canossa contavano su vescovi legati da vincoli di sangue ai loro alleati o ai loro futuri alleati. A Piacenza, ad esempio, fu vescovo Guido, di cui io mi sono occupato sempre in questo articolo, della famiglia dei Gandolfinzi, fino alla metà del secolo X, personaggio potente. E quindi questo ci fa pensare, insomma, questi vescovi cominciano a uscire da famiglie nuove, sono famiglie legate alla nobiltà, e noi non possiamo mai separare l'attenzione alla nobiltà dall'attenzione ai vescovi, tanto più in un'epoca in cui i vincoli del sangue sono un fatto importante. L'uomo dell'alto medioevo non concepisse un'idea astratta dello Stato, concepisce soprattutto i rapporti fra le persone, primo da un punto di vista del sangue, secondo da un punto di vista umano, cioè il vassallaggio con tutto quello che ne consegue. Ma mi scuso di dire queste ovvietà. Ora, il ritorcersi del potere della famiglia dei Canossa contro i vescovi. E noi sappiamo che i Canossa hanno usurpato i beni delle cattedrali. E già Ludovico Antonio Muratori chiamava Bonifacio grande uccellatore dei beni della Chiesa, gran ladrone. E questo è documentato dei beni della Chiesa. Ora, il ritorcersi del potere dei Canossa contro il prestigio vescovile, la ricchezza e anche la giurisdizione poi che i vescovi avevano sottratto ai conti, per me spiega come l'imperatore non appoggiasse, se non formalmente, nel cuore dell'Italia padana, i vescovi. I quali vescovi, diversamente, non ci spiegheremo perché gli si ribellarono, proprio in quella zona i vescovi gli si ribellano. Nel 965 si ribellano i due più potenti vescovi dell'Emilia occidentale, Guido di Modena e Sigulfo di Piacenza. Ora, Sigulfo di Piacenza si era impadronito di una parte dei beni del monastero di Bobbio, l'altro, Guido, si era impadronito di tutto il complesso dei beni nonantolani, di San Silvestro di Nonantola. Guido riuscì a diventare abate del monastero di Nonantola, e ben prima che Ottone I in Italia trionfasse su Berengario II, lo vedremo. Guido, arcicancelliere dell'impero, arcicancelliere quindi per la seconda volta, questa fu destituito. Al suo posto ebbe la carica di arcicancelliere Uberto, vescovo di Bari. Allora, dov'è la tanto proclamata alleanza viscerale, voluta, deliberata, di Ottone I con i vescovi italiani? Io non la vedo, almeno per certe zone del nord, per il cuore della pianura padana, per zone così importanti per l'imperatore. Tuttavia, da più di mezzo secolo, gli storici italiani hanno rilevato il maturare di un potere eccezionale dei vescovi nel corso del secolo X. Un potere tale, se noi lo consideriamo, da non giustificare un ulteriore appoggio, ancora un altro appoggio fornito ai vescovi dagli imperatori. Tra gli storici del nostro secolo, Silvio Pivano dimostrò per primo il formarsi ed il crescere del potere politico dei vescovi dell'Italia settentrionale, della Toscana, del Ducato di Spoleto, e il calare e lo svanire del prestigio dei conti delle vecchie dinastie. dei conti Salici, Franco Salici, anche Borgognoni, comunque delle vecchie dinastie. Però Pivano non collegò mai i due fatti con precise esemplificazioni, a mio avviso almeno. Non riuscì mai a precisare per una zona, insomma, il nesso fra questi due fatti, il crescere del potere vescovile e il calare di quello comitale, con precisione, studiando delle famiglie concrete, che è l'unico modo per riuscire a capire questa realtà. Per lui c'è la decadenza dinastica, enuncia una decadenza delle vecchie dinastie comitali, però non riesce in sostanza mai a dimostrare perché ne nascono delle nuove, perché vengono nuove dinastie. Questo è un mio sospetto, una cosa forse da parte mia troppo polemica, credo, non lo so. Cito un brano significativo dell'opera di Pivano, l'opera è Stato e Chiesa, da Berengario I ad Arduino, Torino, 1908, pagina 149. Da Spoleto alla Toscana e al Friuli, dal Piemonte alla Liguria, alla Lombardia e all'Emilia, noi crediamo aver dimostrata la non dipendenza, quantomeno di poteri, dei conti della seconda metà del secolo X dai conti istituiti in Italia dai Carolingi, cioè i vecchi conti Carolingi, le famiglie comitali Carolingi, secondo Pivano nel X secolo, sono decadute. E su questo d'accordo, su questo d'accordissimo. Egli però, pagina 15, spiega genericamente il nuovo stato di cose e lo riferisce alla fortunosa, se non sono parole sue, fortunosa prima metà del secolo X, pur attribuendone le responsabilità maggiori a Berengario I e a Ugo di Provenza, e poi mettendo sullo sfondo l'imporsi del prestigio episcopale. Pagine 150-150. Nel manuale preziosissimo di Carlo Guido Mor, L'età feudale, primo volume, Milano, 1953, pagina 172, la tesi della crescita del potere vescovile durante il secolo X è accolta e documentata in tutta l'opera ricchissima di informazioni, sia nel secondo volume che nel primo. È su questa linea recepita dal Mor che si sono mossi gli studiosi italiani, prima e dopo la sua sintesi. Tuttavia, nonostante la presa di coscienza che i vescovi sono diventati potentissimi nel secolo X, nella prima metà, la vecchia convinzione di una politica deliberatamente filoepiscopale degli ottoni, che avrebbe dato l'impulso decisivo e più efficace, il primo in realtà, il primo impulso, alla maturazione della fisionomia politica del vescovo, ha stentato ad inclinarsi. La vecchia teoria che Ottone ha reso i vescovi conti ha stentato, nonostante questa sintesi del Mor, ad inclinarsi. E la conclusione che ne derivava da questa vecchia teoria, sul piano del giudizio, della vocazione o meno della Chiesa episcopale al potere politico, è capitale. I vescovi, secondo la vecchia teoria, non avrebbero scelto il ruolo temporale di pubblici funzionari, ma l'imperatore ve li avrebbe spinti, instaurando l'imperatore, così, una supplenza concorrenziale dei vescovi nei riguardi dei conti, allo scopo di sostenere il regno. Quindi i vescovi si sarebbero sacrificati in certo qual modo, se così posso dire, no? Per uno scopo nobilissimo, per supplire i conti che sono decaduti. Il regnum minato dai nobili riottosi, ribelli. Le conclusioni opposte a cui sono arrivato consistono in questo, che Ottone I sancì giuridicamente e tollerò anche il potere vescovile, sopportò, e deliberatamente rimise in forza il potere comitale. Quindi Ottone I contrastò una vocazione autentica dei vescovi al potere. Ora, le mie conclusioni sono state suggerite dai dubbi che riguardo alla vecchia teoria hanno espresso due storici italiani, dubbi fortissimi, e alcuni storici tedeschi, mi riferisco al Panke, a Holtzmann e ad altri. Soprattutto recentemente Eugenio Dupré Tesaglio. Ma cominciamo da Cesare Manaresi. Cesare Manaresi, nel noto articolo Alle origini del potere dei vescovi sul territorio esterno delle città, apparso nel bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo, numero 58 dell'anno 1944, ridimensiona l'attività filoepiscopale degli ottoni. Tuttavia il Manaresi pensa che le concessioni elargite ai vescovi vadano spiegate con l'abilità diplomatica delle cancellerie vescovili, capaci, secondo il Manaresi, di preparare diplomi imperiali falsi che, presentati all'imperatore, avrebbero ottenuto la concessione di quelli autentici. Il vescovo di Parma Uberto, secondo Manaresi, arcicancelliere di Ottone I, e quindi esperto del formulario diplomatistico della corte, avrebbe dato il via a questo macchinoso, a mio avviso, procedimento, seguito da altri vescovi. Queste sono le parole di Manaresi. La notizia della straordinaria concessione fatta al vescovo di Parma indusse ben presto quello di Reggio a tentare di ottenere la stessa cosa per la stessa via. Insomma, hanno imbrogliato l'imperatore, mi pare, che come spiegazione storica non si possa accettare, anche se può essere avvenuto su un piano concreto. Ma a limitare il valore della politica degli ottoni e degli altri imperatori a vantaggio dei vescovi con una motivazione ben più realistica, più storica, più profonda, è stato Eugenio Dupré Tesaglio. In tre sedi ha ribadito questo. Nel suo saggio Vescovi e città nell'Italia precomunale, apparso in Vescovi e diocesi in Italia nel Medioevo, a Padova, nel 1964, nel saggio apparso nel 1963 nella Renovatio Imperii, una collezione di saggi promossa dagli studi romagnoli, e nei volumi dedicati a Ottone il Grande nel millenario dell'impero, uscito nel 63. Tre lavori di Dupré quasi identici, con aggiunte, con correzioni, con ampliamenti. In sostanza Dupré ha battuto su questo punto, cioè rivedere la teoria tradizionale dei rapporti fra impero e vescovi al tempo degli ottoni e anche poi dopo in parte. Dupré Tesaglio ha negato un piano imperiale a favore dei vescovi, constatando la diversità del loro operato, dell'operato degli imperatori, a seconda delle zone d'Italia, e constatando la concessione dei diritti giurisdizionali, dei diritti comitali, a pochi vescovi. Su 50 vescovi che occupavano 50 sedi del Regno d'Italia, a 5 soli vescovi Ottone I concede queste prerogative comitali. E le cifre contano, per Dio. Il Dupré Tesaglio non è andato molto oltre questa constatazione, del resto assai importante. Egli poi ha approfondito, come dicevo, l'argomento a varie riprese e anche in lezioni universitarie, se non ricordo male. Tuttavia, aver negato un piano imperiale a favore dei vescovi è stata una cosa importante, quando la storiografia precedente pesava come una cappa di piombo in Italia, soprattutto, a imporci di considerare la politica di Ottone come deliberatamente filoepiscopale. Il Dupré, tuttavia, ebbe anche a fare un'altra osservazione. Cioè, secondo lui, nell'Italia settentrionale, al contrario che nella Germania, erano i vescovi ad essere più potenti dei funzionari laici comitali. Per questo, aggiungerei io, mentre in Germania Ottone I diede il suo appoggio ai vescovi per contrastare l'alta nobiltà, in Italia fece l'opposto. Appoggiò le grandi nuove famiglie dei Canossa, degli Obertenghi e di altri contro i vescovi. Non formalmente, non apertamente, non sfacciatamente, ma a mio avviso la fece. Difatti, nel 962, in un momento solo, creò conte di Reggio di Modena e forse anche di Mantova ad Alberto Atto di Canossa. Dopo, badate, che nelle due prime sedi c'era stata una crisi profonda dell'autorità comitale. Sembra che non ci fosse stato più conte a Reggio dal 944 in poi, a quanto credo di avere tirato fuori in qualche modo nei miei lavori. E a Modena dal 942 in poi, quindi dal 944 al 942 al 62, l'autorità comitale probabilmente si è proprio estinta in queste città ed è Ottone prima della risuscita. A Verona Ottone pone come conte Gandolfo, della famiglia dei Gandolfinzi. Guardate che io li ho chiamati Gandolfinzi perché il nome ricorre spesso, ma ho trovato un contratto di affitto del 1100, anno esatto 1100, in cui la canonica di Reggio affitta dei beni e proibisce di subaffittarli ai Gandolfingis. Dice subaffittateli a tutti, tranne quelli lì, tranne che ai Gandolfingis. Quindi non ho sbagliato nel coniare questo nome, che tentennavo un po' a scriverlo. Non solo, ma Ottone fa conte di Piacenza un altro membro di questa famiglia, sono famiglie nuove. Egli in sostanza appoggiò la nuova nobiltà, la nobiltà longobarda che riemersa al potere politico già agli inizi del secolo X per rafforzarsi con Re Ugo, come sostenuto recentemente anche da Hagen Keller. Longobardi sono quasi ininterrottamente, questo lo sapevamo, basta prendere il manuale del More, i conti di palazzo, dal tempo di Ugo in poi. L'eccezione è una, Sansone, credo. Tutti quanti sono longobardi, Giselbertini e poi dopo gli Oberlenghi. Parlo del secolo X, e non vale. Siamo d'accordo. Longobardi sono le famiglie nuove potenti degli Oberlenghi, i Canossa, i Gandolfinzi e altre famiglie toscane, di cui io non mi intendo, ma di cui il professor More ben si intende, e della Gherardesca, i Berardenghi, eccetera. Ora, tornando ai vescovi. Esempio significativo, anche se eccezionale sotto alcuni aspetti, della carriera politica, ripeto, della carriera politica dei vescovi e della instabilità dei rapporti fra vescovi italiani e Ottone I, è la figura del vescovo di Modena Guido. Che io ho trattato male. Il Versipelle. Guido da Modena, tu l'hai chiamato. Difatti l'hai stato, insomma. Spero l'hai stato. Di trovarlo nell'aldilà, perché sennò... Questo si riguarda a tutti, sai. Perché certamente... Quando Manasse, vescovo di Trento, è usurpatore delle altre due sedi episcopali di Verona e di Mantova, si ribella a Re Ugo nel 945 e quindi facilita l'ingresso in Italia a Berengario II, aprendogli il passaggio per la Val Venosta. Anche Guido di Modena si ribella. Si ribella a Ugo, quindi questo è abituato a ribellarsi, appena può lo fa. Ecco. La ribellione del vescovo modenese indeboliva fortemente il controllo di Ugo sui passi della Pena. E quindi minava la facilità di scendere verso la Toscana e verso Roma. E questo fatto, cioè che sia avvenuto qualcosa di grosso, se lo rivela Luprando, quando dice che Ugo da Pavia apposta per almeno un mese se ne va ad assediare il vescovo Guido nel castello di Bignona. Quindi lui deliberatamente, Re Ugo, cerca di riportare Guido all'obbedienza. Ora, qual è il motivo dell'impennata del vescovo di Modena? Secondo me questo motivo non è stato valutato con sufficiente attenzione dagli storici. Anche se uno storico contemporaneo, Liubrando da Cremona, l'ha espresso seccamente ma chiaramente questo motivo, il motivo per cui Guido si ribella a Ugo di Provenza. E dice Liubrando, Guido mutinensis ecclesiae presum, nonne ignudi.